non saranno i buoni a salvare questo mondo. Con i loro teneri discorsi sull'amore, sono troppo ingenui e si consolano sognando, stanchi di dover andare dove porta il cuore. Non saranno i buoni rassegnati all'ingiustizia, a strappare all'angelo del male le sue ali, con la sua bilancia arrugginita la giustizia è una statua addormentata in fondo ai tribunali. Il cuore dei cattivi invece batte forte, con strappi di passione e grande convinzione, sfida anche la morte. Non saranno i buoni a far la guerra a questa guerra, con le loro fragili bandiere della pace, e non potrà un'enciclica spazzare dalla terra i rancori radioattivi dell'odio più feroce. Il cuore dei cattivi è sempre più può fare il bene, ma quando il cuore dei cattivi avrà toccato il fondo, con i suoi battiti istintivi potrà cambiare il mondo, perché alla fine di un dolore o di un'immensa oscurità, il male vuole il bene. E forse questo Dio lo sa. Il cuore dei cattivi per noi è solo un mostro, ma è fatto come lui.